Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Oh, bentornati a Chiedo Asilo e un saluto da Kappa e da Drago. E oggi rispettiamo l'ordine alfabetico che è importante, Kappa e Drago. Bene. Allora, siamo arrivati alla fine della prima settimana. Prima settimana, tempo di bilanci, devo dire, già, sì. Questo asilo, come ti sei trovato? Ma io direi abbastanza bene, insomma, tu vuoi lavorare un po' troppo secondo me, perché all'asilo bisognerebbe giocare, divertirsi, comunque. Siamo qui pagati, voglio vedere se ci mettessimo a giocare. Vabbè, Radio 24, sì. News and Talk. News and Talk, direi che è andata bene, anzi sai cosa, che cominciano anche a conoscermi in giro per strada. Sì, no? sì, guarda, l'altra volta addirittura c'era un signore dentro un'automobile col finestrino giù che mi ha detto: avvicinati bel bambino. Io sono andato, mi ha fatto vedere una caramella, mi ha detto: vieni con me, ti porto a fare un giro, ti do una caramella. Io non sono andato. Ecco, ma Drago, le caramelle sai, dagli sconosciuti non si prendono, no, e poi fanno ingrassare. Una caramella ogni tanto, che no, poi qua tra l'altro, dai, questa settimana diciamo che se c'è una cosa che non va tanto qui all'asilo è il fatto del cibo, che non abbiamo ancora mangiato. Non capisco, c'è la mensa lì, ma perché non andiamo? Ma non si può andare alla mensa. Ma come non possiamo? Per andare alla mensa devi avere i buoni. Andiamo a prenderli i buoni. Ma no, perché quando tu vai alla mensa a mangiare, l'ufficio che vende i buoni è già chiuso. È chiuso. Per cui tu devi comprare i buoni il giorno prima, ma quando magari apre? Non hai fame. Hai apre capito? Quando hanno finito di mangiare certo, tutti. È così che funziona. Te lo devi ricordare prima di avere fame il giorno dopo. Non funziona così. Ma scusa, ma la radio, qui Radio 24, questa radio di informazione giornalistica. News and Talk. Non poteva darci, che ne so, un cestino, come succede, vai in esterna, ti danno un cestino. Ma con sì, dentro... ma è news and talk, mica news, talk and food. Dai, vabbè, dai, allora cosa facciamo? La dieta? E certo, ti metti a dieta, così poi puoi indossare le tue belle camiciole attillate e fare il giovane. Che bello. Drago, l'obesità infantile è un problema serio, Non puoi sottovalutarlo. Lo sai che l'obesità crea più danni del fumo. Ma come? Eh sì, la sanità nazionale paga di più i danni causati dall'obesità che quelli causati dal fumo. Quindi è lì che bisogna combattere, sull'obesità. Hai capito? Bisogna fare come in Inghilterra. Vabbè, in Inghilterra secondo te sono tutti magri. Ma dai, vabbè, ma stanno dimagrendo. C'è il bambino Jamie Oliver, che è il più grande cuoco della televisione internazionale, che fa un programma sulla BBC, che da anni si preoccupa di far sì che nelle scuole e nelle mense delle scuole si cucini cibo sano. Vabbè, fa bene. Fa cibo bene, sano. Fa bene, fa così bene che a furia di fare questi suoi programmi, diciamo anche educativi, ha convinto il governo inglese a stanziare 650 milioni di sterline per migliorare il servizio mensa della scuola. Tutto solo seguendo un semplicissimo manifesto che lui ha scritto di 6 punti, quindi una specie di esalogo, appunto, dove dice che i bambini devono non solo mangiare bene, ma innanzitutto imparare a cucinare, che quindi ci siano dei professori che insegnino a cucinare, come si è fatto che io. I presidi possano evitare che nella scuola ci siano distributori di merendine o bibite gassate. Tutto questo per far sì che gli inglesi diventino magri e non obesi, perché te lo ripeto, l'obesità crea più problemi del fumo. Allora, questo può succedere anche in Italia. Beh, però in Inghilterra abbiamo Jamie Oliver che è una star della cucina in TV. In Italia abbiamo la bambina Antonella Clerici con la sua prova del cuoco, che ogni giorno entra nelle case degli italiani e insegna a far da mangiare con il suo stile da fatina. Ma che fatina? Fatona semmai. Dai, la bambina Clerici non vuole che cose grasse o grosse. Senti qua. E iniziamo l'impasto. Allora, facciamo così: 500 grammi di farina, 5 uova per questi tagliolini al brand. Intanto vuoi che io faccia qualcosina? Qua bisogna andare di mattarello. Beh, insomma, così non è che dimagrisci tanto. Però non c'è solo la TV, abbi pazienza, Kappa. Va bene, in Italia quest'estate il governo si è mosso bene invece per la prevenzione dell'obesità. Sì? Ma certo, ha promosso un paio di cose interessanti, tipo che nelle mense scolastiche il cibo non può provenire da parti lontane del mondo, deve provenire tutto da una zona abbastanza vicina. Questa si chiama la famosa cultura della cucina chilometri zero, oppure quella della filiera corta, esatto, quindi dal produttore al consumatore. Vabbè, questa mi sembra una buona cosa, così si mangia solo patate, riso, grano turco, pomodori, peperoni, le cose però il governo ha anche evitato e vietato l'introduzione di cibi, diciamo, etnici all'interno dei menù delle scuole. Certo, ma se come devono venire da vicino, ma niente sushi, niente enchilada, decili di peperonde, una birretta, diciamo che ci sono anche delle regole, perché ci sono i tabù religiosi, quindi voglio dire, i bambini non possono mangiare, se un bambino islamico non può mangiare il porco, ma l'encilada, magari di pollo. Però purtroppo il governo qualcosa l'ha sbagliato in queste linee guida. Sì, perché ha detto no alla doppia porzione. Beh, giusto. Ma no, è una crudeltà. Ma no, ma è giusto. Ma Drago, ma l'abbiamo detto prima, la doppia porzione, l'obesità. Ma scusa, ma se un bambino va in ginocchio davanti all'inserviente a dire mi dia un altro piatto di pasta asciutta, l'inserviente è obbligata a dire no alla doppia porzione. Assolutamente no. È un ottimo sistema contro l'obesità che crea, te lo dico per l'ennesima volta, più danni del fumo. Quindi un piatto di pasta asciutta e poi al bambino semmai gli dai una sigaretta. Beh, anche due allora. Ma sì, tanto non fa mica male. Chiedo asilo. Vai, ricreazione, ricreazione. Calmati, perché tanto non c'è proprio tempo di fare nient'altro. Eh no, cosa vuoi, andare sullo scivolo, 2 metri? Sei più lungo tu dello scivolo. E allora bisogna fare l'intervista. Intervista, stavolta sul tema della mensa, perché è interessante sapere cosa pensano i bambini della mensa in cui mangiano tutti i giorni. Sì, bambini, alla fine c'è sempre solo il bambino Alberto. Beh, facciamo lui, tanto ormai. Dov'è, però dov'è? Quando bambino vuole... Alberto! Alberto! Eccoti qua. Allora, vogliamo chiederti 2 cose sulla mensa oggi. Sì. La prima è su questa novità della mensa con il cibo a chilometri zero. Come le macchine? Sì, vabbè. Come le macchine? Ma che macchine? No. Chilometri zero, cioè che provengono questi cibi da qui vicino, no? E quindi fanno 0 chilometri. Vabbè, ma se per quello qui sembra proprio a chilometri zero, eh sì, perché qui si tratta del tragitto dal ristorante cinese, qui all'angolo vicino alla mensa, sì, a qui, a noi. Ma come, mangiate cinese? Sì, insomma... Il fatto che qui ci trasportano il sacco dell'umido del ristorante cinese, no? Ma cosa? Il sacco dell'umido, tu intendi il sacco... Della spazzatura! Ma come quello della spazzatura? Mangiate la spazzatura? Ma no, la spazzatura, sono gli scarti, i rifiuti del ristorante cinese. Ma vabbè, ma non è vero, qui è vero. Nel sacco, che non è quello nero, ma è quello con la plastichina sottile, biodegradabile. È quello con la plastichina azzurrina, fine, che si scioglie in bocca. Ma cosa? Perché la mangi? La plastica? Volendo potresti anche mangiarla, Come volendo? È perché questo sacco è una specie di grande raviolone cinese, no? Ma per carità. E tu potresti anche addentarlo, prendere una porzione, sì, vabbè. E intanto la plastichina si scioglie. Sì, infatti, si scioglie. Qui sentiamo le solite stupidaggini sempre dal bambino Alberto, quindi possiamo andare... Però si scioglie, ha ragione. Ma sì, ma ho capito, ma non è vera tutta questa storia. No, ma voi avete provato a mangiare in mensa? Effettivamente no, la verità ancora no. Ecco perché non ci credete. Ma scusa, ma il sacco dell'umido poi di cosa sa? Perché il sapore è proprio quello dei finocchi cotti, no? Il sapore dei finocchi cotti. Il sapore dei finocchi cotti sconditi. Vabbè. E senza olio, è perché costa. Vabbè, ho capito. Però insomma, se non ti piace quello che ti danno, puoi sempre dire non voglio mangiare. Te bravo. Qui casca l'asino. Ma perché? Non è che qui puoi dire signorina, mi scusi, non mi piace la spazzatura cinese che sa di finocchi cotti. Qui ti dicono mangia. Vabbè, e ma ti è obbligano, lager. Ma dai, una specie di lager. Sì, però bisogna dire che tu sei anche fortunato, fai parte di quelli che almeno la mensa ce l'hanno e possono mangiare, perché ci sono tanti tuoi amici, tanti tuoi compagni che purtroppo, non avendo i soldi per potersi pagare il servizio mensa, ne sono esclusi, quindi non mangiano. Succede, succede. Cosa ne succede, pensi di questi atti? Io penso che i fortunati sono loro. Ma come? Ma adesso voglio dire. No, come fortunati? Fortunati, perché quella è una scusa per non mangiare la spazzatura cinese che sa di finocchi cotti. Ma cosa dici? Cioè, siamo al delirio. Sì, un po'. Sa di finocchi cotti sconditi. Ho capito, sconditi. Cotti, cotti. Però sconditi. Vabbè. Però qui stiamo parlando di discriminazione di bambini che non possono mangiare. Lo so. Ma il discriminato sono io, io che devo mangiare sempre questa spazzatura cinese che sa di finocchi cotti. Ma tanto la plastichina si scioglie in bocca. E allora, alla fine. Ma almeno un goccino d'olio, no? Così scorre. Ale, vai, finita. No, ma che brutto, già la prima settimana. Vabbè, dai, finita. Adesso si spalanca il weekend, per me è sempre un po' angosciante, no? Perché non so cosa fare. Vabbè. E almeno durante la settimana tuoi. Lavoro, vengo qui all'asilo. Adesso, guarda, sono le mamme che vengono a prendere i bambini. Guardiamoci le mamme. No, guardiamoci le mamme. Piuttosto ringraziamo il bambino Pietro Lacorte. Il bambino Luigi Speciale. Il bambino Guido Bertolotti. E naturalmente il bambino Alberto Caserini. Sì, c'è anche Tito il Tutor. Tito il Tutor. Grazie anche a te. Scusa, ma Tito il Tutor, chi è che lo porta fuori a fare la cacca? Ma quale cacca? È virtuale. Ma che è virtuale? Senti che puzza. Torniamo lunedì. Prenotate i vostri buoni mensa a chiedoasilo@radio24.it.